Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi, Italia in controluce, due edizioni quotidiane che raccontano l'Italia. C'è preoccupazione per quello che sta accadendo in Libia, sulle ripercussioni che questa crisi può avere anche sul fronte dell'immigrazione. L'Unione Europea prevede un'ondata di 1,5 milioni di immigrati, ma quali sono le rotte dalla Libia verso l'Italia? Cristina Carpinelli. My name is George. Mi chiamo George. Born and brought up in Cameroon. Sono nato in Camerun dalla tribù di Yabassi. Mio padre è nigeriano, mia madre è camerunense. Ho deciso di venire via per migliorare la mia vita e quella della mia gente. E ora sto dando il meglio di me stesso. Voglio andare a scuola, voglio tornare e portare conoscenza nel mio villaggio. Not only my lifestyle, but the lifestyle of my people. I have got the concept of integration. Credo nel concetto di integrazione e rispetto il vostro paese che sta avendo a che fare con così tanta immigrazione. Il mio sogno è tornare a casa un giorno. Finally. Questo che avete sentito è un estratto dal film di Alan Maglio Milano Centrale. Di film, libri, inchieste sull'immigrazione clandestina dall'Africa ne sono stati scritti e girati centinaia. Si tratta di un'esigenza reale perché in Italia, su circa 60 milioni di abitanti, 5,6 sono immigrati, ovvero il 7,4% della popolazione. Sono persone che arrivano dal Sud America, dalle Filippine, dall'Africa, ma anche dall'est europeo. Si tratta soprattutto di immigrati regolari. Se si entra invece nel cono d'ombra degli irregolari, i numeri diventano approssimativi, molto spesso per difetto. Chi ha il polso della situazione è invece chi con questo tema lavora ogni giorno. Siamo andati allora allo IOM, cioè l'International Organization of Migration. Flavio Di Giacono è un italiano e all'interno dell'associazione è la persona che si occupa di comunicazione. Parlo per quanto riguarda l'Italia, chiaramente, perché noi siamo stati tanti anni, dal 2006 presenti a Lampedusa, poi in Sicilia. Le posso dire che la rotta che passa per la Libia, che è stata sempre la rotta principale dell'immigrazione irregolare via mare, è formata da migranti che arrivano essenzialmente dall'Africa subsahariana e dal Corno d'Africa e dal Maghreb, quindi fondamentalmente ci sono tantissimi somali, eritrei, tutte persone in cerca di asilo, molti nigeriani, anche marocchini e tunisini. Storicamente questi sono i flussi che cercano di arrivare a Lampedusa e che sono praticamente nel 90% sempre passati attraverso la rotta libica, che però è stata chiusa di fatto dal 2009, da quando le autorità libiche hanno cominciato a rafforzare i controlli. Ecco, i libici da una parte è sembrato anche che rafforzassero appunto questi controlli, dall'altra però in qualche modo hanno gestito anche una sorta di mercato nero dell'immigrazione, è così? Quello che, basandoci sui fatti, è vero che dal 2009, da quando è stato fatto l'accordo tra Italia e Libia, i flussi si sono praticamente fermati. Quanto costa in media un viaggio? Questo dipende perché può variare tra i 1.000, i 3.000 euro, i 5.000 euro, dipende dalla zona dell'Africa dalla quale si arriva, perché chiaramente il viaggio può essere molto lungo dal Corno d'Africa. Bisogna passare per il deserto, poi si arriva in Libia, si resta molto tempo in Libia per poi trovare altri soldi per pagare i trafficanti che fanno arrivare in Italia. I trafficanti libici dunque continuano ad avere un ruolo centrale in questa storia di disperazione, perché sono storie disperate quelle di queste persone che in Italia arrivano via mare. A raccontarlo bene è stato il giornalista dell'Espresso Fabrizio Gatti, prima fingendosi immigrato e raccontando come si viene accolti in un centro di prima accoglienza, poi ultimamente in un suo documentario dal titolo Sulla via di Agadez. Un documento incredibile del quale vi facciamo sentire un estratto e che potete vedere su YouTube, perché l'unico canale a trasmetterlo fino ad oggi è stato Rai News 24 alle 3 di notte. Da Zender saliremo per quasi 500 km verso nord, attraverseremo anche una parte di deserto e arriveremo ad Agadez. È una città completamente isolata dal mondo esterno, da quando i ribelli Tuareg hanno dichiarato guerra all'esercito regolare del Niger. Proprio per questo motivo il governo di Niamey ha deciso lo stato d'allerta e in base a questa legge speciale ogni attività giornalistica, ogni attività di ricerca, di approfondimento, di indagine nella zona di Agadez e nel circondario è vietata ed è punita con l'arresto immediato. C'è anche un'altra parte di questa storia, è quella che riguarda gli immigrati più ricchi, quelli cioè che possono permettersi di entrare in Italia con un visto temporaneo e poi rimanervi. E sono la maggioranza. Quindi quando parliamo di barconi, parliamo di una fetta minuscola di questa storia di spostamenti, pari al 10% di tutta la migrazione irregolare, soltanto che è la più visibile e quella più martoriata e soprattutto quella che più spaventa. Ancora Flavio Di Giacono dell'International Organization of Migration. La verità è che la maggior parte degli immigrati irregolari che arrivano in Italia arrivano attraverso la frontiera terrestre, addirittura con un visto che poi viene fatto scadere e restano sul territorio regolarmente. Sono i cosiddetti overstayers, tecnicamente. Quella è la maggior parte dell'immigrazione irregolare. Chi arriva via mare sono persone che assolutamente non hanno altri mezzi per arrivare in Europa, in Italia nello specifico, e che quindi sono costretti ad affidarsi a questi trafficanti di persone che chiedono somme ingenti e soprattutto gli fanno rischiare la vita, perché noi sappiamo quante persone sono arrivate, ma non sappiamo quante persone non ce l'hanno fatta e sono morte nel Mediterraneo. Questa è una nostra preoccupazione e sarà una nostra preoccupazione anche in futuro, nel caso dovessero ricominciare eventualmente gli sbarchi dalla Libia, perché sicuramente è un'opzione molto rischiosa per le persone, quindi temiamo che possano esserci parecchi morti in mare. L'Unione Europea in tutti questi anni ha veramente messo in atto, questo glielo chiedo dal suo osservatorio, delle politiche per affrontare il tema dell'immigrazione irregolare? Sì, sicuramente sono state messe in atto delle politiche, però sicuramente molto c'è da fare perché comunque, questo va detto, è effettivamente vero, il problema dell'immigrazione, soprattutto questo tipo di immigrazione che arriva via mare nel Mediterraneo, è qualcosa che interessa un po' tutta l'Europa, non soltanto l'Italia, però l'Italia chiaramente per ragioni geografiche si trova in un punto particolarmente delicato, però è un qualcosa che dovrebbe essere affrontato a livello globale, più che a livello italiano sicuramente. Italia in controluce. Bene, grazie a Cristina Carpinelli per questo viaggio sulle rotte degli immigrati dalla Libia verso l'Italia. Intanto c'è un appello di personalità, di personaggi su quel villaggio vicino a Sigonella che dovrebbe ospitare gli immigrati. Il racconto di Nino Amadore. Turgo, che vive a Roma, è il manager che vive in Germania, c'è l'insegnante e l'ingegnere, poi intellettuali o semplici cittadini, tutti d'accordo nel dire no alla trasformazione del Residence degli Aranci, che fino a qualche mese fa ha ospitato i militari americani in servizio a Sigonella, in villaggio della solidarietà, secondo una definizione a effetto che ne ha dato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Tutti hanno firmato un appello indirizzato proprio al presidente del Consiglio, in cui tra le altre cose dicono: se l'ospitalità per i migranti è un dovere della comunità nazionale, parimenti lo è il rispetto del buonsenso, spiega il drammaturgo Massimiliano Perrotta. Noi non è che abbiamo l'idea che questa cosa non si debba fare, la nostra idea è si potrebbe anche fare, se fossero per esempio 100 persone, allora diventa una scommessa culturale e per un posto che ha difficoltà potrebbe anche diventare addirittura un'occasione di sia d'apertura culturale sia anche a livello economico, perché magari si trovano delle soluzioni d'accordo col ministro eccetera. Per i firmatari il progetto di imporre dall'alto a un paese di poco più di 5.000 abitanti un centro di accoglienza per 7.000 persone non è sostenibile. Chiedono come si potrà procedere alla loro inclusione sociale confinandoli in un sito circondato da fondi agricoli e distante almeno 10 km dal più vicino centro abitato, quale rispetto si ha del diritto d'asilo se migliaia di persone già in corso di integrazione in altri siti sparsi sul territorio nazionale vengono spostati all'improvviso a Mineo per ricominciare da zero. Dopo l'accoglienza, quali opportunità di lavoro e di sviluppo potrà fornire loro il nostro martoriato territorio? Queste le domande che si pongono i firmatari dell'appello, dice Joseph Stancanello, direttore dell'innovazione della Siemens Healthcare Oncology di Erlangen in Germania. Non c'è assolutamente nessun tipo di ragione razzista dietro questo tipo di appello. Come dice la stessa lettera, si tratta di una questione di buon senso. Noi siamo nati e cresciuti nel territorio di Mineo e conosciamo molto bene il quadro economico del territorio di Mineo, che in questo momento è al collasso. e quindi si tratta alla fin fine di un rapporto fra delle risorse disponibili e l'impiego di queste risorse, ho detto in altro termine di offerta e domanda. Se l'offerta di risorse umane è sproporzionata rispetto alla domanda, si crea una condizione di disequilibrio che risulta essere perniciosa per tutto il quadro economico e sociale della zona. 13:43 minuti e 42 secondi, è la seconda edizione Italia in Controluce. Cercateci naturalmente su radio24.it, su Facebook, Twitter, via mail controluce@radio24.it. Ci sentiamo domani alle 6:30 con uno speciale di Andrea Ferro su Gladio, sulla rete Stay Behind.